Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il tricolore della pattuglia acrobatica sopra il cielo di Trieste nel 70° del passaggio della città alla Repubblica Italiana. Una città che ha battuto tricolore sempre, anche quando l'Italia è stata mutilata di Fiume, Dalmazia e Istria, che pure avevano una storia altrettanto italiana, lo ha detto il presidente del Senato La Russa durante la cerimonia dell'alza bandiera solenne in Piazza Unità d'Italia. Perde il controllo dell'auto nella notte e perde la vita, caduta ad Artegna, dove è morto il gemonese Stefano Zilli. Un operaio di 50 anni è rimasto schiacciato da un muletto contro la parete di un magazzino a Prata di Pordenone, è stato elitrasportato all'ospedale. All'indomani della manifestazione di 4.000 persone contro l'ovovia, il sindaco di Trieste dichiara che proseguirà per la strada della cabinovia metropolitana. La Basilica di Aquileia diventa una delle chiese più accessibili a tutti. Gorizia fa rivivere via Rastello e casa Kreiner con i prodotti di artigiani e agricoltori locali. Udine intanto rivede il gioco di luminari e piste di ghiaccio ed eventi per donare alla città l'atmosfera natalizia. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Il tricolore delle frecce sopra il cielo di Trieste subito dopo l'alza bandiera solenne per celebrare i 70 anni del passaggio della città alla Repubblica Italiana, una città che è sempre stata italiana prima che lo diventasse anche dal punto di vista politico e istituzionale, e che ha battuto tricolore sempre anche quando l'Italia è stata mutilata di Fiume, Dalmazia e Istria, che pure avevano una storia altrettanto italiana. Sono le parole della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato La Russa, in Piazza Unità d'Italia. Anche il ministro Ciriani ha ricordato le terre dell'esodo. Sentiamo. 26 ottobre 1954. Trieste torna sotto la sovranità italiana dopo quasi un decennio di incertezze e tensioni politiche internazionali. Il sindaco Roberto Di Piazza ha salutato così i cittadini e le autorità politiche, militari e religiose che hanno voluto celebrare e ricordare la festa dell'unità e della liberazione, ha detto il sindaco citando le parole di Gianni Bertoli, sindaco, nel 1954. A portare i saluti della regione è stato l'assessore Fabio Scoccimarro. Il presidente Massimiliano Fedriga ha mandato un saluto dalla sua missione negli Stati Uniti. Oggi Trieste è in grado di guardare al futuro, apportando al nostro paese un valore aggiunto, sapendo dialogare col mondo e creando ponti con le radici orgogliosamente ancorate al proprio tricolore, ha concluso Fedriga. È necessario fare tesoro della propria storia e tramandare la memoria ai giovani, che devono sapere che ciò che hanno adesso è stato conquistato con tanto sacrificio, è stato il messaggio portato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, per il quale Trieste è la città più italiana di tutte. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto partecipare a distanza con un discorso che è stato letto in piazza. Oggi Trieste è il centro di un'Europa radicata in una comune identità di radici, libertà, democrazia e opportunità. Tra queste lo sviluppo commerciale della città con il suo porto verso l'India, il Medio Oriente, l'Europa e il Mediterraneo. La Meloni ha scritto anche della vocazione geopolitica della città e della responsabilità nei confronti dei Balcani occidentali, che non possono rimanere a lungo fuori dall'Europa. Da quella che ha definito la piazza più bella d'Italia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato gli eroi che nel dopoguerra persero la vita per l'Italia, specificando che quel sentimento non si è ancora spento dopo 70 anni, ma è cresciuto. La cerimonia in Piazza Unità si è conclusa con l'alzabandiera, accompagnato dalle note dell'inno italiano e dal passaggio della pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 37 anni, Stefano Zilli, di Gemone, è morto questa notte in un incidente stradale ad Artegna, in via nazionale all'altezza del civico 47. L'uomo ha perso il controllo della vettura, che è andata a sbattere contro un muretto. In seguito all'urto si è ribaltata, un urto così forte che ha proiettato l'uomo all'esterno dell'abitacolo per almeno 4 metri. Sul posto, in aggiunta ai sanitari e al servizio di elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tolmezzo. Un operaio di 50 anni è stato schiacciato da un muletto contro una parete questa mattina in un magazzino di un'azienda a Puglia di Prata di Pordenone. È stato egli trasportato all'ospedale. 52 anni, originario di Cordenonse, è stato colpito da un carrello elevatore in manovra e poi schiacciato contro il muro nel magazzino della Cristalia in via Durante a Prata di Pordenone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I sanitari intervenuti sul luogo con ambulanza e automedica hanno evidenziato un trauma toracico addominale per il quale si è reso necessario l'elitrasporto in codice giallo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni rimangono serie, ma non è in pericolo di vita. Sull'incidente indaga la struttura per la sicurezza degli ambienti di lavoro, a causarlo molto probabilmente una svista del conducente del muletto o lo stazionamento del malcapitato in un punto cieco del mezzo operativo. L'incidente dell'azienda operante nel settore dell'arredamento di design è solo l'ultimo di una lunga serie nel pordenonese che si ritrova in zona rossa al primo posto in regione per il numero di incidenti. Nella destra Tagliamento si contano 14,8 incidenti per milione di abitanti. Sempre nella provincia di Pordenone, secondo dati ANMIL, sono in aumento le malattie professionali. Il primato delle morti bianche in regione va a Udine. Prata di Pordenone, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Utilizzava auto, telepass e buoni carburante per fini privati, denunciato un dipendente di un'azienda a capitale pubblico per truffa aggravata e peculato. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno concluso un'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica per far luce su una segnalazione giunta da una società a partecipazione pubblica in merito ad alcuni comportamenti sospetti di un dipendente. È stato riscontrato l'utilizzo illegittimo di un'auto aziendale in giornate estive, in cui il dipendente risultava in ferie, oltre all'uso del telepass della società su un veicolo privato per recarsi in montagna in occasione di festeggiamenti di Capodanno. In diverse circostanze sono poi stati riscontrati rifornimenti di carburante al di fuori degli orari di servizio. Circa 4.000 triestini ieri sera hanno riempito Piazza Unità d'Italia per dire no alla cabinovia metropolitana, che non sarà finanziata dal PNRR ma da un finanziamento ordinario. A seguire l'appello del comitato contrario all'infrastruttura progettata dal comune, molti cittadini ma anche diversi partiti e associazioni, una mobilitazione che non ha scomposto il sindaco dalla sua volontà. Famiglie con bambini, ragazzi, adulti e anziani, cittadini di tutte le età hanno sfilato per le strade e le piazze di Trieste per dire ancora una volta basta all'Ovovia, un progetto più volte definito inutile, impattante, insostenibile. Il corteo, iniziato in piazza Oberdan, si è concluso sotto la sede del municipio, riempiendo di gente di fatto quella stessa piazza Unità che poche ore dopo ha ospitato la cerimonia dei 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia. Qui abbiamo intercettato il sindaco di Trieste. Secondo la questura, 4.000 persone ieri sono scese in piazza. Sindaco di piazza, cosa dice ai tanti cittadini che proprio non vogliono quest'opera? Parliamo di 4.000 persone. 4.000 vuol dire il 2% della popolazione. Cosa dico agli altri 98%? Questa è la realtà. Cioè, insomma, questi stanno portando avanti. Hanno raccolto delle firme, ho mandato dei cittadini, hanno raccontato delle cose folli per farsi firmare. Non ci si comporta così. Ricordiamoci, chi semina vento raccoglie tempesta. Per l'Europa la cabinovia non è finanziabile perché manca il rispetto dei vincoli ambientali richiesti dal PNRR, piano che avrebbe dovuto coprire con circa 50 milioni di euro i 62 milioni di spesa complessiva stimata. Il sindaco non cede. A Roma di piazza ha ottenuto l'impegno del Ministero delle Infrastrutture a individuare fondi alternativi. Noi i fondi li abbiamo, dice. Basta raccontare tutte queste bugie ai cittadini. Trieste, Anna Vittaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La CGIL chiede un tavolo urgente per risolvere le criticità di funzionamento del SORES, segnalando che l'attività di soccorso è peggiorata sia nei tempi operativi che nell'individuazione dei target da raggiungere per una serie di motivi. La criticità, secondo il segretario regionale della CGIL Piga e della segretaria di funzione pubblica Orietta Olivo, non sono legate soltanto alla difficoltà nel reclutamento del personale infermieristico da destinare al servizio. Per la CGIL va ripensata completamente l'organizzazione del sistema. Incentivare economicamente infermieri affinché prestino servizio alla SORES, affermano Piga e Olivo, non sarà sufficiente, anche se cosa dovuta, se non si apre un serio ragionamento sul sistema dell'emergenza sanitaria in regione. Ricordano infatti che per novembre e dicembre c'è la necessità di coprire 2.400 ore di turni e la soluzione proposta da ARCS, che obbligherebbe la rotazione fra territorio e SORES, secondo la CGIL, alimenterà la fuga degli infermieri verso la sanità privata. È stato pensato per gli escursionisti over 50 il convegno Mantenersi attivi in salute, seniores in montagna, che si è tenuto questa mattina a Palmanova, al Teatro Modena. con un evento incluso nelle iniziative per ricordare i 150 anni dalla fondazione della Società Alpina Friulana. Tra i relatori Guglielmo Antonutto, già docente di fisiologia all'Università di Udine, e lo psichiatra Elio Campiutti. Nel corso dell'evento è stato presentato il decalogo dell'escursionismo seniores per i neofiti della montagna. Ne abbiamo parlato con Elio Candussi, coordinatore seniores del CAI. Questo decalogo serve a sintetizzare i principi ai quali dovrebbero attenersi i frequentatori della montagna e varia dalla parte introduttiva dell'andare in montagna, cioè decidere l'itinerario, dove andare, vedere le previsioni meteo, vedere il bollettino valanghe ed avere contezza della difficoltà del percorso scelto e di conseguenza decidere l'attrezzatura da portarsi appresso nello zaino, l'abbigliamento e l'alimentazione. E poi sono le parti più vicine all'aspetto medico, che sono la verifica dello stato di salute della singola persona, che quindi deve andare dal medico e dire posso andare in montagna a fare questo, questo, questo. E l'altro aspetto è che le persone seniores, gli anziani, hanno tipicamente varie patologie per le quali non hanno problemi di sofferenze particolari quando sono in città, in pianura, ma queste patologie possono provocare dei problemi ulteriori andando in montagna e quindi bisogna consultare il medico che gli dice guarda, se vai in montagna e tu sei, non lo so, cardiopatico, iperteso, devi modificare la terapia. E quindi queste sono le attenzioni. Un ultimo aspetto importante è la socializzazione, perché l'invecchiamento attivo consente di mantenersi sani, sì, però non andando da soli, ma andando in compagnia. A Gorizia, la storica Casa Kreiner in via Rastello ha aperto le porte per la 2 giorni di Go Makers, in cui espongono i propri lavori e prodotti gli artigiani e gli agricoltori dell'Isontino e del Carso. In programma laboratori di Biedermeier, pizzo a tombolo, pranzi con gli antichi ricettari goriziani, storie sulle tradizioni e le botteghe di Gorizia, dimostrazioni con il telaio. L'evento, promosso da Confartigianato, Gal Cras, Ad Formandum e sostenuto anche dal Comune, ha come obiettivo valorizzare l'artigianato artistico, le tradizioni e i prodotti locali, anche coinvolgendo attivamente alcune organizzazioni che sono impegnate a rivitalizzare Borgo Castello. La città di Udine si prepara al Natale e la Giunta Comunale ha così approvato il piano degli allestimenti natalizi, in cui spettacolari proiezioni architetturali illumineranno le facciate di piazza San Giacomo del Castello di Udine, della Loggia del Lionello e la Biblioteca Civica Ioppi. Sul plateatico di Piazza Libertà sarà realizzata una struttura luminosa per fare da sfondo a selfie. Tra le attrazioni che hanno riscontrato maggior successo durante lo scorso Natale, la pista di pattinaggio in Piazza Primo Maggio, che quest'anno farà il bis. Piazza Duomo, Piazzetta Lionello, Piazzale della Repubblica, Piazza Garibaldi e Piazza 20 Settembre avranno un albero illuminato e, come già fatto lo scorso anno, un abete natalizio sarà presente anche in Parco Moretti. Durante tutto il mese di avvicinamento al Natale sono previste numerose iniziative di intrattenimento e concerti nel centro. Il calendario è in via di definizione, ma è già fissato per il 5 dicembre il Gala della Magia al Palamostre. Inoltre, i commercianti del centro storico che posizioneranno gli addobbi davanti alle proprie attività commerciali saranno esentati dal canone per l'occupazione da suolo pubblico. La Basilica di Aquileia, sito UNESCO, è ora accessibile a tutti. Dopo 24 mesi di ricerche, progetti e iniziative, è diventata una delle chiese più inclusive d'Europa. Sentiamo come. Ci sono voluti 24 mesi di lavoro fra progetti, ricerche e iniziative mirate per trasformare la Basilica Patriarcale di Aquileia in un emblema di accoglienza, inclusione e accessibilità. Gli antichi mosaici di età romana e le opere straordinarie che all'interno della basilica sono custodite sono stati resi fruibili a persone non vedenti, a ipovedenti e a persone con disabilità cognitiva. Sono stati predisposti servizi di videoguide con linguaggio LIS per persone non udenti che saranno disponibili entro la fine del 2024. È stata perfezionata l'eliminazione delle barriere interne alla basilica e sono disponibili sedie a rotelle per persone in visita. Ultima tappa la produzione delle guide per persone con disabilità intellettive, reperibili gratuitamente all'ingresso della Basilica o scaricabili online. La Fondazione Socoba, società per la conservazione della Basilica di Aquileia, spiega il direttore Andrea Bellavite, ha voluto che chiunque potesse gustare lo straordinario patrimonio di storia, arte e spiritualità custodito dalla Basilica e sentirsi parte di una città dalle radici millenarie. Aquileia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La regione, con 15 milioni di euro, di cui 13,5 provenienti dal programma FESR, sostiene attraverso un bando gli investimenti delle strutture ricettive turistiche in regione. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal bando regionali le micro, piccole e medie imprese ricettive turistiche. Si va dagli ostelli agli affittacamere, ai campeggi, alberghi e villaggi turistici. Il limite massimo dell'aiuto concedibile è di 240.000 euro. La domanda potrà essere presentata dal 30 ottobre al 31 marzo 2025. Lo storico Sergio Luzzatto riceverà questo pomeriggio il premio Friuli Storia 2024 per il libro sulle origini delle Brigate Rosse intitolato Dolore e Furore, una storia delle Brigate Rosse. La consegna del premio è in programma Udine al Centro Culturale delle Grazie alle 18, ma sentiamo cosa ha detto Luzzatto ai nostri microfoni. Terrorismo rosso inizia attaccando i magistrati, perché il primo attentato è stato verso un magistrato, arriva agli operai, ai rappresentanti degli operai, ai giuslavoristi. Perché un certo tipo di rivoluzione colpisce chi invece poteva essere solidale a questo tipo di rivolta? Ma forse Genova è interessante. Il mio libro finisce per parlare di tutta l'Italia, no? O addirittura anche oltre le frontiere. Però si muove da Genova e in qualche maniera intorno a Genova. E da questo punto di vista è interessante perché Genova è la città della grande industria di Stato. Il primo magistrato, come lei ricorda, il giudice Sossi, a essere rapito è un magistrato che si era battuto proprio contro quei diritti, contro il 68 da un certo punto di vista. Però poi in questa guerra privata che i terroristi di estrema sinistra finiscono per dichiarare allo Stato, il nemico cambia, non basta più neanche rapirlo, bisogna ammazzarlo. Poi a un certo punto il nemico diventa il politico, pensiamo al caso Moro, e infine di fronte al fatto che gli operai non ti vengono dietro, perché in realtà gli operai hanno altri valori che non sono quelli della violenza quasi fine a se stessa, alla fine il nemico diventa l'operaio, cioè Guido Rossa, operaio, sindacalista, comunista. Quando le Brigate Rosse nel 79 a Genova ammazzano Guido Rossa, muoiono quel giorno, perché non poteva essere una rivoluzione comunista in cui a stare ucciso era l'operaio. Viaggio Ingenito, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.47 il meteo, il tempo e cielo da variabile a nuvoloso sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 19,5 gradi, Gorizia 18, Udine 16,5 gradi, Pordenone 16 gradi, Tolmezzo e Forni di Sopra 14,5 gradi, Tarvisio 12 gradi, Piancavallo 11,5 gradi, Sappada 8,5 gradi, sullo Zoncolan 8,5 gradi, sull'Ussari 8 gradi, a Grado e Lignano 18 gradi. Le previsioni dell'ARPA e FVG, in giornata variabilità con la possibilità di qualche rovescio sparso, ma anche di schiarite. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A le reti di Lucca e Davis hanno regalato la vittoria all'Udinese al Friuli contro il Cagliari, rimasto in 10 dopo mezz'ora di gioco. La squadra di Rugnaic è così in zona Champions. In Serie C la Triestina, in cerca di riscatto e di risalita in classifica, debutta con il nuovo allenatore Clotette in trasferta a Crema alle 15 contro la Pergolettese. Una sfida salvezza per entrambe le squadre, con la Triestina ultima in classifica, la Pergolettese con appena 2 punti in più. Basket, in A1 Trieste in trasferta a Treviso questa sera avrà di fronte una squadra tosta che per coach Christian è una delle squadre con la capacità realizzative tra le migliori di questa Lega e quindi sarà necessaria una difesa perfetta. Palle a 2 alle 20. In A2 Apu Udine sarà questa sera sul parquet di Piacenza, ultima in classifica. Intanto Gesteco con la vittoria in casa contro Vigevano 73-68 e in cima alla classifica. Sentiamo coach Pillastrini al microfono del collega di Rai Sport Maurizio Fanelli. Anche il tecnico Pillastrini, prima di chiudere, è stata una partita durissima, un po' quello che si aspettava, coach, all'inizio. Sì, sì, è quello che mi aspettavo, però sinceramente non mi aspettavo una Vigevano anche con questi canestri difficilissimi che hanno fatto alla fine, veramente bravi, veramente complimenti tanto, perché... E devo fare i complimenti anche ai miei giocatori, perché in quel momento lì era facile cadere, abbiamo avuto qualche giocatore completamente fuori partita e quindi questo, però siamo riusciti anche a trovare alcuni spunti che poi hanno portato a casa la partita. Io dico sempre che le squadre diventano forti quando riescono a vincere, quando non riescono ad essere brillanti, quando non riescono a giocare bene. Oggi abbiamo fatto una partita con una fatica pazzesca, perché prima la difesa di Gevano ci metteva in difficoltà, poi questi canestri veramente difficili che riuscivano a fare, ci hanno messo una difficoltà enorme e siamo riusciti a prendere i due punti e di questo sono davvero molto molto contento. Siete primi in classifica. Bellissimo, però speriamo di rimanerci, cosa devo dire? Non è una cosa, chiaramente abbiamo giocato 7 partite, però con un calendario difficilissimo, avere 10 punti dopo 7 partite non era una cosa preventivabile, quindi adesso l'abbiamo fatto, però ne abbiamo altre 29, quanti sono? No, di più, 31, quindi credo che siamo all'inizio, però l'inizio è stato molto buono. Grazie. Complimenti. Coach Stefano Pillastrina. Cambiamo argomento, la rassegna Jazz and Wine porterà a Cormons questa sera Anthony Joseph, cantante, poeta, musicista, ma anche scrittore di culto afrofuturista, attivista in prima linea per difendere i diritti civili. Sarà invece un jazz d'eccellenza italiano, quello con Matteo Paggi e Giraffe, alle 15 a Villa Codelli di Mossa e a San Floriano del Collio, nell'azienda agricola Gradisciutta, alle 18.30. Completa il programma della giornata il trio del batterista e compositore tedesco Joe Hertenstein. È affidato al musicista attore Lodo Guenzi il DJ set organizzato per il festeggiamento dei 35 anni di attività del Circolo Arci Kral Angelo Galante di San Vito al Tagliamento. Il cartellone include la conferenza Kral 35 anni di sogni, in cui verrà raccontata la storia del circolo e delle idee che l'hanno fatto crescere, a cui interverrà il docente Giuseppe Mariuzza alle 17. A seguire cena con specialità messicane, il DJ set. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi per la rassegna Trieste Incroci Letterari, che propone autori e scritti della regione e altre lingue e culture della Trieste multietnica. Diego Zandel presenterà il suo romanzo Un affare balcanico a Trieste, la libreria Ubic in galleria Tergesteo alle 18, tra le pagine una vicenda ispirata all'affare Telecom Serbia del 97. Il convegno itinerante sulle battaglie della ritirata di Caporetto prevede la conferenza alla 22esima divisione Schützen da Plezzo a Longarone, Aragogna, al Museo della Grande Guerra alle 18. Sesta edizione di Cammina Natura, 2 giorni di visite ed escursioni guidate gratuite in tutta Italia, con focus che spaziano dalla natura all'economia circolare e al turismo responsabile. Tra le proposte la passeggiata notturna nel Parco del Cormor, di osservazione di stelle e pianeti, appuntamento a Campo Formido con ritrovo in Viale delle Rose alle 20.30. E ora invece gli appuntamenti con le nostre rubriche. Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, va in onda la rubrica sull'agricoltura Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura le nuove opportunità di svolgere il servizio civile proprio nell'ambito agricolo. A seguire la nidiata dei conigli, affidata alle cure dei bambini nei ricordi di Angelo Floramo. Nella rubrica dedicata a macchine e agricoltura, la vangatura a mano e ancora lo schioppettino, un'immersione nella storia del vino friulano. I fagioli, conservazione di questa fonte di proteine alternative alla carne e il contenitore giusto per ogni pianta, come sceglierlo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. In televisione sempre domani andrà in onda la rubrica nazionale Stove, se sentiamo nelle anticipazioni. In Moldavia il referendum per confermare il futuro europeo del paese è passato per una manciata di voti. La Grecia e il turismo, con 33 milioni di visite nell'ultimo anno, il paese ellenico ha superato il record del 2019. La crisi e la ristrutturazione elettrica del settore automobilistico stanno creando tensioni sociali nell'Europa orientale. Parla Tari Kotka, l'uomo che ha completamente digitalizzato il rapporto tra lo Stato e i cittadini in Estonia. Vienna, con una mostra antologica nel prestigioso Museo d'Arte Moderna, rende omaggio allo scultore Medardo Rosso. Tutto questo è Stovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E con questo chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Federico Comar e Samuel Montalto. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.